Onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Hitam bakile kudo balang, pasangan ben di bugilammo. Urang malie lai sana, konon kok pulo urang mantunyo. Urang malie lai sana, konon kok pulo urang mantunyo. Onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Rami urang kapacu kudo, rami dek anak mudo mudo. Tasira darah di dado, pasobok jo jando lamo. Tasira darah di dado, pasobok jo jando lamo. Onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Onde onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Onde iyo bugilammo, mainkanlah bugilammo tu. Kudok kancang jang dilacu, kok dilacu ilari manduwo. Onde jando japui dan surui, dan ubah parang dan surui dan ubah parangai